giù senza te, non ce la faccio più. Ma la mia strada sarà breve, partirò, verrò da te, passerò per monti e per città. Ma la mia strada sarà breve, poco tempo poi sarò tra le braccia di chi m'ama sempre. Sarà breve, poco